risposta è T, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, adesso contate, complimenti, no, ragazzi, poi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Anche se lei fa la stima. Poi, un cazzo. Mi dispiace che sia la stessa. Questo mi produce sofferenza. Qui il passo posto con questa. Non è che lei per caso potrebbe con i buoni uffici procurarci una nuova, magari per far vedere ma questo qui magari non vado da un altro mi stavo dando quella quale però rapidamente raccomandato qualcuno di voi della casa qua, del più dirigenti assidue alla specialistica non si manca, anche le altre che si mancano, ma la specialistica non si deve mancare. Non so se sono chiaro nel concetto, insomma. Qui c'è una che è arrivata alle Etiopie, lei si è quindi cercate veramente di essere assidui, lo dico naturalmente, potrete avere il piacere di vedervi, ma nel vostro stretto esclusivo interesse. Perché questi sono esami, preciserò meglio il concetto, che anche per chi sta leggendo. È molto bello sentire che c'è questo così rispettosa attenzione da parte degli studenti, una cosa che calda il cuore, calda il cuore. E no, per un motivo, perché vedete, la specialistica bisogna avere dei voti molto belli, capito? Non belli, ma molto belli, se no non ha senso. Mentre uno può concedersi anche dei voti. Dopo no, sarà uno stupido, investe male le sue energie e i suoi sforzi. E per avere voti molto belli bisogna seguire molto bene. È chiaro un disegno, come dire, della cosa. Io temo sempre, adesso vivo in attesa, c'è un tizio che mi ha perseguitato da 5-6 volte con email pretendendo che mi rispondessi, poi dicendo che ero uno studente lavoratore, finché è arrivato al colmo della mia sopportazione e improvvisamente gli ho scritto una lunga appassionata mail, no? Di diverio profondo che non si permettesse mai più per nessuna ragione al mondo di seccarmi, che c'era a che cosa serviva l'email, serviva per le amministrazioni, serviva non per gli studenti, dentro le ore di ricevimento gli ho spiegato tutto. Io ho anche annotato alcuni casi politici, perché io ho detto che non poteva portare un certo programma. Lui mi ha scritto questo capone, ma vabbè, ma non conoscete tutto, e che diceva il mio amico dottor Milano, che forse qualcuno di voi conosce, ha scritto vabbè, io ho detto non può portare questo programma, vabbè, A, B, B, E, virgola, vedrò di attenermi alle sue indicazioni. Se mi facesse cadere dall'alto la concessione di fare un programma, io gli risposto, e niente, non sono indicazioni, sono prescrizioni, non attenendosi alle quali lei sarà bocciato. E poi a un certo punto gli ho detto che era stato sufficiente. Stavo dicendo, in vostra assenza, voi dovete avere dei talenti più biondo. Andiamo ormai sulla follia. Dovete avere dei bei voti, dovete avere tutte dei bei voti, tutti. Un voto basso alla specialista qui in particolare non è ammissibile, per cui chiaro, il corso è abbastanza impegnativo, difficile, sono cose chiare. Perché lei la barba non se la fa? Ma è la questa dei trentenni che attesta direi prepotentemente la sua virilità. Non ce la vuoi però. Ma io invece no. Concludo sulla barbetta dei tristelli, quindi che prometto che non faccio più divagazioni. C'è un amico, diciamo così, di una mia collega che io ritengo assolutamente un coglione. Ho trovato il modo di dire a lui e alla collega, che ha 55 anni e ha questa barbettina. Allora, la barbettina si può portare quando uno vuole testimoniare l'attività sua testicolare. Diciamo così, ma non a 55. Allora aveva questo cappotto da ultimo tanto da radicale, che nota grande performance, la barbettina, la sciarpetta, e gli dico, ma non è possibile che tu frequenti un tipo di così deliquescente intelligenza, glielo ho detto. E lei gli ha detto, ah, ma questo mi ricorda mio padre, non deve ricordarti niente, devi guardarlo nella sua miseria inconsistente, lui. Passiamo a cose serie, eh? Passiamo a cose serie. Allora, l'altro giorno abbiamo fatto, anche per gli assenti, una delle quali era Chiara, se non sbaglio, era Chiara. Chi ha queste sue assenze, come dire, quando parla di un suo programma esistenziale? Di un suo scuro, però. Anche a me preoccupato. Abbiamo parlato di quello che è la caratteristica rispetto ai cubisti. Vorrei ripeterlo in due parole, no? I cubisti vogliono fissare le essenze delle cose, per cui le cose le dipingono, parlo di cose perché i cubisti non si occupano di figure umane se non trattandole come oggetti, come cose. In due modi due, in un primo tempo li tagliano secondo piani geometrici, costruiscono. Forse ve l'ho detto, la storia dei cubi, perché la parola cubismo ve l'ho detto da dove nasce, ve l'ho detto, sono piccoli cubi, diceva Louis Vossel quando vide questi quadri di Braque delle Stack, delle vedute delle Stack. Le Stack è un golfo, un porto vicino al golfo di Marsiglia. Un primo sistema è quello di tagliarli a piani, come vi dicevo, il paragone non è molto piacevole, ma insomma dà un po' l'idea, come quando si fa una tacca. Come quando si fa una parte, così. Il secondo modo dei cubisti di rappresentare le essenze è per l'appunto quello di rappresentare dei dettagli. Direi che procedono, mi viene in mente in questo momento, da un punto di vista retorico, il cubismo procede per sinecdoche, cioè la parte per il tutto. Quindi vuoi rappresentare un giornale, rappresenti dalla parola journal, rappresenti jour. E così tanti altri dettagli danno poi luogo all'insieme. Ecco. Quindi così viene vissuta nella pittura cubista, che è il punto di riferimento irrinunciabile per, sono chiaro, no? Per la pittura, per dire l'altro, per la poesia di Reverdy, così viene vissuta la realtà. Però. Qual è? Cosa manca secondo Reverdy in questa rappresentazione della realtà? Manca il fatto che la realtà è, per dirla austeramente, piena di vita, è un mondo di vita. E allora il procedimento che lui, al quale lui si attiene, è questo. Si rappresenta il, per dirlo esattamente nel modo che lo dico, si rappresenta il fenomeno, poi il fenomeno diventa oggetto di attenzione affettiva. Questa attenzione affettiva è sia da parte dell'autore, sia da parte poi del lettore. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il fenomeno è investito di emotività. Ora, io posso investire di emotività una persona, evidentemente. La segretaria del preside è ragazza bellissima. No? Io trovo il modo di andare a fare più firme possibili, in qualità da lei, dico, ma signore, non ci sono più firme da fare, mi spiace, non ce ne sono più. Perché l'ho investita di affettività. Non glielo ho detto comunque, è chiaro. Però lei lo capisce, perché insomma, a un certo punto, no? Si capiscono queste cose. Ma io posso investire di affettività anche il preside, in modo diverso, su questo non c'è alcun dubbio, o un tavolo. Perché se questo tavolo è un tavolo che è legato alla mia fatica, al mio lavoro, oppure qualche altro squisito ricordo della mia vita affettiva, non è più un tavolo anodino, ma diventa investito di affetto. Ecco, la differenza sostanziale tra Reverdy e Cubisti è questa, che parlano dei fenomeni, però Reverdy li investe di affetto. Successivamente, che cosa succede ai fenomeni investiti di affetto? È come se fossero travolti dal movimento. Questo è una osservazione che non vi ho fatto l'altra volta, ma è molto bella. A me gli occhi, le orecchie e qualunque altro organo percettivo di cui disponiamo. Attenzione. Se io investo di attenzione affettiva, uguale. Se io amo una persona, la persona non è più col primo. Questa è la grande idea. Come dire? Ma lo vedete quando una persona è oggetto di attenzione affettiva, è più fresca, è più nuova, è più viva. Diciamo così, che se la persona si accorge, facciamo il caso della persona, con il tavolo certo è impossibile fare, se la persona si accorge di essere oggetto di attenzione affettiva, è come se trovasse improvvisamente una nuova giovinezza. Una persona che viene mollata dall'uomo o dalla donna, come se perdesse vita, diventa più pallida, diventa più priva di bellezza, quella bellezza particolare che dà l'averle insufflato la vita. Quindi l'attenzione affettiva non lascia l'oggetto uguale. Se è una persona, tutto questo è facilmente constatabile da come la persona è, perché la persona è una cosa viva, evidentemente, dalla risposta che può dare, eccetera, è chiaro. È ok di voi. Sì, ma sei un tavolo. Lucrezio parlava delle affezioni delle cose e diceva sunt lacrime rerum, anche le cose piangono. Era bellissimo. La nostra casa è fatta di oggetti, alcuni dei quali sono stati particolarmente investiti da funzione affettiva da noi. La scrivania, la quale lavoriamo, il letto sul quale dormiamo. Ed è come se quel letto fosse diverso che se qualcuno non ci avesse mai dormito. Mi ricordo, non so come ci ricordo questa stravaganza, sto parlando di un ricordo che sarà di 92 o forse 93 anni fa, c'era un compagno, un amico, mi ricordo, che mi diceva il letto mio, mi ricordo era lungo, secco, si chiamava come me, il letto mio era un ragazzo povero, pieno di bitonzoli, però, come non mi ricordo su dettagli, però io non dormirei su un letto diverso, perché mi sono abituato, insomma, è il mio letto, ognuno ha le sue cose, no? A cui è tenacemente affezionato. Quando queste cose le perde, sono cose, sono soltanto oggetti. No, non è così. Non è così. È come se l'attenzione affettiva cercasse di usarsi su persone, fa sé, evidentemente, ma su cose. E queste cose, dopo che l'affetto le investite, non sono più le stesse. Naturalmente per un animo insensibile sono le stesse. Ma no, nel caso delle persone vive lo si vede molto chiaramente, no? Se io smetto di amare una persona, la persona che la cosa mi ama, la persona diventa brutta, diventa povera, diventa vecchia. Pensi tutte le donne che lei ha lasciato. Facciamo le vecchie. Pensi come sono diventate dopo, brutte. Ma pensi invece una che è stata improvvisamente amata da lei come è. Fiorita in che cosa? Di una luce particolare che ha, capisci? Questo vale per tutti i rapporti affettivi e vale per gli oggetti. A questo punto, investito dall'attenzione affettiva, l'oggetto, usiamo questa espressione neutra, e investito dall'attenzione affettiva, primo punto, e quindi travolto da un movimento, il movimento che dà l'affetto, l'oggetto è pronto per essere inseribile in una storia. Quale storia? Beh, per esempio, facciamo l'esempio della campana con il battaccio, il battaglio del Simone, senza battaccio. Allora noi ci immaginiamo una storia intorno a questa campana. Ci sarà stato che cosa? Com'è una campana può essere, tra l'altro? Cosa deve essere? può essere a un certo momento. Lei e Lorenzo sono il padre. C'è qui un ragazzo che si chiama Valerio, e lei Valerio, chi è Valerio? Mi diceva Luca Bevilacqua, c'è un ragazzo molto bravo che si chiama Valerio. Non lo conosco. E lui diceva, perché tu non guardi gli uomini? Anzi, sono le donne in cui non guardi gli uomini. Com'è che una campana può essere? La città è stata saccheggiata come gesto di sfida. Allora quando vediamo qualcosa che manca, per esempio se lei vede uno va a comprare un orologio, l'orologio senza lancetto, un po' le fa essere. Certo, ecco. Un po' come anzino. Qualcosa che manca di decisivo, no? Cioè, vai a tavola, al ristorante. Manca nel fatto della campana, No, ma pensa al fatto della campana. Vai a tavola, riflettete su queste cose, la mente deve essere agile. Vai a tavola, al ristorante, ti preparano. Ti danno il menù, quello che a Roma chiamano menù, il menù, o il menu, e ti danno il menù, la bottiglia, eccetera, e ti danno il tovagliolo e il piatto. Però non ti danno una cosa, non è che non ti danno. Le posate. Allora tu dire, ieri, ma non vuoi tu le posate? Ah, qui non c'è uso. Niente posate. Ma come fa a mangiare senza posate? La direzione non è prevista. Si rivolgono a fare magnante. Vedete come voi sorridete immediatamente di fronte a queste cose, ma ecco perché vi spiego che l'oggetto investito da attenzione affettiva entra in una storia, cioè entra nella storia. Questo è il procedimento di Reverdy. E con questo procedimento possiamo passare alla seguente, alla poesia successiva, che è Depart. Io qui della mia edizione non posso dire la prima. Depart. 179, eccetera. Ormai il libro avete tutti? Libro. Ragazzi, chi è che non ha il libro? Francesca. Ancora no. Sono andata lei a prenderlo, è colpa mia stavolta. È arrivato. Allora, Depart, leggiamo questa poesia meravigliosa, difficilissima, non difficilissima, ma per anime lette. Ecco, scrivete vicino questa poesia, scrivete vicino, per anime elette. L'horizon s'incline, les jours sont plus longs, voyage. Un cœur saute dans une cage. Un oiseau chante. Il va mourir. Une autre porte va s'ouvrir. Au fond du couloir, où s'allume une étoile, une femme brune, la lanterne du train qui part. Traduction. L'orizzonte s'incline. I giorni sono più lunghi. Viaggio. Un cuore salta in una gabbia, un uccello canta, sta per morire. Un'altra porta si aprirà in fondo al corridoio, dove si accende una stella. Una donna bruna, la lanterna del treno che parte. Anzitutto, per la minima pratica che avete di queste poesie, come vedete, non solo la, proprio così a naso, la struttura è sempre la stessa, no? Ma i termini si ritrovano. Per esempio, al quarto verso, voi vedete un cuore che salta in una gabbia e l'uccello che canta. Vedrete spessissimo queste gabbie, questi uccelli. Questa è una delle cose che si ritrovano di più e che ci hanno fatto fare l'ipotesi dei topoli. Che ben sapete di fare. Allora, in questa poesia, se noi guardiamo con attenzione la prima parte, l'orizzonte che si inclina, i giorni, il viaggio, il cuore nella gabbia, l'uccello che va per morire, e poi appunto un'altra porta che si apre, il treno che parte, noi vediamo intersecarsi, le prime poesie erano più semplici, vediamo intersecarsi due topoi. Uno è palesemente quello del viaggio, quello del viaggio. L'altro è quello della prigionia. E infatti l'uccello che canta è vicino, al cuore che salta nella gabbia, ma vi prego di notare la finezza che il cuore che salta nella gabbia ci fa pensare subito all'uccello. E infatti, come vedete, per associazione metonimica arriva l'uccello. Va bene? In realtà il tema della prigionia si capisce già perché è collegato al tema del viaggio, perché è l'opposto del viaggio. Il tema della prigionia indica una ristrettezza, un non poter andare via, no? E il viaggio è l'opposto. Il viaggio è la fuga. È l'antiprigionia. Una cosa interessante che potete notare in molte poesie, ma cominciamo a notare qui, perché notiamo certe caratteristiche della poesia di Verdi, senza pretendere di dare ad alcune di queste indicazioni un valore, come si direbbe oggi, con orrido termine, oggi, si direbbe da parte dei poststrutturalisti, un valore tassonomico, nel senso che non sono regole che poi valgono, ma sono delle indicazioni. Io non credo in scienza della letteratura, ma credo che si possa arrivare a centrare il cuore di un testo, cioè, come vi ho detto all'inizio, l'atmosfera di un testo, attraverso varie indicazioni che passano attraverso fatti formali o fatti psicoanalitici, o fatti storici, o fatti anche strutturali. L'indicazione che sto per darvi è questa. È un'indicazione che riguarda la situazione tipografica. Non è per caso che i versi sono stampati così, che per esempio il secondo sta parte da quasi la fine, quasi dalla fine del precedente, lo vedete? Le di Le è sotto la C di Antin. Ma poi vedete che Voyage invece è sotto Le. Simmetria. Guardate adesso Encore, che parte da un po' dopo l'altezza di l'orizzonte, vedete? Ma gli altri due versi successivi sono come dei blocchetti di tre versi in uno, cioè Encore e il Bavourir sono nella stessa posizione in cui si trovano Le Jour e Voyage. Vedete bene? Un altro è sotto l'orizzonte esattamente. Au fond du couloir rispetta una situazione, però non diciamo nulla, analoga a quella di Les jours sont plus longs, ma Usalume in étoile sono la fotocopia delle situazioni precedenti, quando leggevamo Un oiseau chante, il va mourir, e Les jours sont plus longs, Voyage. Va bene? Ci siamo? Allora, un'indicazione alla quale, ripeto, in modo meramente indicativo, ma lo scopo di un metodo nella critica è sempre quello di aiutare, non di ipostatizzarsi come fatto ontologico, quindi quel metodo lì vale di attenersi a quel metodo a ogni costo, questa è una sciocchezza colossale. Il metodo deve essere in greco, metaodos, è una strada per arrivare, il metodo deve essere semplicemente una indicazione per poter arrivare a un certo traguardo. Qui, ascoltatemi bene, questa mobilità del metodo che propongo l'ho proposta accreditamente in gran parte della mia vita. Mi ricordo perfettamente che ho avuto una volta una contesa proprio, la tesi di laurea che discutevo, era la mia prima tesi di laurea, tra le altre cose. Ed era il 78. Vorrei sapere esattamente, mentre io discutevo la tesi del 78, che cosa faceva Roberta del 78. Fondamentalmente, era aprile nascevo. Non era aprile, non era. 78 era un brano, non era un brano. In quell'epoca, in Italia, ma in Europa, c'era una specie di mito della scientificità della critica letteraria. Ed è stata una lunga lotta che ho fatto contro questa cosa. Una volta fatta nel 79 una conferenza a Teheran contro un libro di Umberto Eco, Lector in favola, che parlava di queste cose. Io credo che non bisogna ipostatizzare un metodo. Un metodo deve servirti per arrivare a qualche cosa. Ogni tanto arriva qualche giovane ciucco a chiederti per la tesi di laurea quale metodo devo usare. Purtroppo c'è una signora intelligente che mi ha detto: professore, ma lei mi deve insegnare il metodo. E questo metodo, capisci? Cioè c'è l'idea strana che la vita intellettuale possa essere paragonata a qualcosa di analogo alla posologia della medicina. La medicina devi prenderla due volte al giorno, a distanza di 10 ore, di 12 ore, prima dei parti, dopo i parti. Ma nella vita intellettuale, alias vita interiore, le cose non stanno così. Tutto è più mosso, tutto è più mosso, tutto è incodificabile. E sarebbe a dire che quasi tutto a prezzi da fare. Quindi lei, Valeria, è una scoperta esistenziale. Tutto è più mosso e, ascolti bene questa frase, quasi tutto è infedele. La nota. Quasi tutto è infedele. Ecco, quindi alcuni di voi, non so, le persone più spregiudicate di voi, le esperte, eccetera, eccetera, avranno da questa frase alimento per i loro pensieri. Però la vita interiore è fatta così. Non è fatta di posologia. No? Ho il fidanzato e questo fidanzato me lo pappo la mattina dopo i pasti e la sera anche lì a stomaco pieno. No? Non è così. Questo è il punto sostanziale, no? Allora, con queste indicazioni io vorrei darvi due suggerimenti per leggere questi fatti fotografici. Primo suggerimento: voi vedete che nel caso di Le Jour sans Plumes è come se ci fosse uno sviluppo narrativo del verso precedente. Ripeto, si tratta sempre di mere indicazioni, voglio che siano generiche. L'orizzonte si inclina, e vedremo subito cosa significa che l'orizzonte si inclina, anzi ve lo dico subito, l'orizzonte si inclina perché si viaggia. E quindi l'orizzonte si sposta, questo vuol dire che si inclina, si sposta, no? Se io vado a fare un lungo viaggio, certo, se io vado di qui a Grotta Ferrata è molto difficile che l'orizzonte si sposti. Ma se io faccio un viaggio meraviglioso di qua, no? E vado per terra, arrivando al nord, a San Pietroburgo, siete stati a San Pietroburgo, non è un posto meraviglioso. E di lì proseguite per andare a prendere la Transiberiana. Allora vedete che l'orizzonte si sposta. Il secondo verso è come se fosse uno sviluppo narrativo, perché se io faccio un viaggio di questa portata, allora passano i mesi, le stagioni, e quindi io comincio a fare il viaggio, mettiamo l'inverno, va bene? E mi trovo che a un certo momento del viaggio è estate. Una giovane mia parente, diciamo così, giovanissima parente, a voi sembra strano che abbia una giovanissima parente, però è una figlia della mia cugina, quindi non irridete questo fatto. È una giovanissima e anche bellissima ragazza con il suo compagno, che cosa ha fatto? Ha fatto un viaggio per... di cui ha Frascati? No. Un viaggio per tutto in barca. Una barchetta, Di qui a lì. Per tutto l'Oceano Pacifico. Pensi un po' lei. Sarebbe addosso la cosa. Cavalloni, mostri, Squali immensi mangiavano la corda della vacca, non avevano niente da mangiare. Insomma, sto figurandomi una cosa. Sono partiti per questo viaggio dall'estremo oriente, hanno fatto tutto il giro gigantesco, meraviglioso. A un certo momento è passato l'inverno, quindi in quelle condizioni, cosa che solo il pensiero mi suscita un brivido di angoscia. E dico, come farei con la mia bottiglia dell'acqua minerale vicino? Con le piccole cose andrei, con il plaid di cui potrei, altro che plaid, non ti abbiaccio. E sono arrivati in primavera. L'amore fa fare dell'amore, anche la Giulietta, l'amore fa fare queste cose. Beh, bello, una piccola parte, la radio non funziona più, magari. Però, fatte queste considerazioni, sono esattamente quelle che noi dobbiamo fare, perché quando leggiamo, dobbiamo, come diceva Barthes, alzare gli occhi dal testo e immaginare. Allora, vi prego di notare, l'orizzonte si inclina, ma lo sentite la portata del viaggio? Lo dico. Se non lo sentite, c'è questo nuovissimo cantiere, cercansi, ecco. L'orizzonte si inclina e poi, come sviluppo successivo, le stagioni sono più lunghe. Già certo, perché è passato molto tempo. Voi sentite che in questa divaricazione dei due versi, questo arco, il compasso mostra la costruzione del viaggio. Quindi quando noi abbiamo un verso sotto l'altro messo in modo asimmetrico, possiamo ragionevolmente pensare che si tratti di uno sviluppo narrativo. Quando abbiamo un verso immediatamente sotto l'altro in modo simmetrico, è il caso di Voyage rispetto alle Jouson Plon, dobbiamo invece pensare a un'altra cosa. Quale? Che ci troviamo di fronte a una sorta di emanazione. Mi spiego cosa vuol dire. Se io dico l'orizzonte si inclina, sviluppo relativo, i giorni, come dice qua, i giorni sono più lunghi, e ormai io lettore so che stiamo parlando di un lungo viaggio. Non ho più bisogno di altro, perché arrivato alla fine del verso i giorni sono più lunghi, la parola viaggio è come incastonata in tutto questo, per cui viaggio viene da sé, capite? Allora, Reverdy usa questi due pronunci. Quando mette un verso sotto l'altro in modo asimmetrico, vuol dire che è uno sviluppo, che è un qualcosa di nuovo, Quando invece una cosa è sotto l'altra, vuol dire che è un'emanazione diretta. Andiamo avanti e vediamo questo encore sotto, un cage, come lo collochiamo. In realtà voi vedete che non si trova esattamente sotto l'orizzonte, no? Questo che cosa può significare? Che cosa può significare? Può significare che siamo nel mezzo del nuovo, del racconto. Quindi è inutile ricominciare da capo, perché il racconto è già cominciato. Questo è semplicemente un riprendere da un certo punto il racconto, capite? Roberto, è chiaro questo? Ecco perché vado indietro, ma non tanto, non arrivo di nuovo all'orizzonte. Quando noi troveremo un altro verso che arriva all'altezza dell'orizzonte, vuol dire che il racconto ricomincia da capo, ma qui invece non sta ricominciando da capo. Guardate cosa significa adesso il verso, un cuore salta in una gara. A parte il fatto che questo, come in una posizione prolettica, il cuore che salta una gabbia, anticipa per l'appunto l'uccello, evidentemente, perché è l'uccello che salta una gabbia. Però io trovo straordinariamente poetico questo cuore che salta in una gabbia. In una gabbia. A parte il fatto che mi verrebbe anche da, con ronzio conoscente di anatomia, di pensare alla gabbia dorata. Ma il cuore che salta in una gabbia in senso metaforico, quando è che un cuore salta in una gabbia? Lorenzo, mi dica a me, quando salta in una gabbia un cuore? Purtroppo non è niente di meglio che cioè mi spieghi meglio di questo saltare con le gabbie? Praticamente è un qualcosa che come se smettessi di appartenerti. Vediamo che lei sta incontrando al bar, che è sempre il nostro punto di riferimento focale in questa università, al bar trova una ragazza che le piace. E io invece un nome di una ragazza che non voglio, un nome di una ragazza che le piace. Non c'è nome. Non c'è nulla, c'è immagini che le spiegherà il piacere. Viva o... No, non morta. O anche di cellulosa. Una ragazza la tua portata, adesso è difficile che una... Di continua, credo di continua, cioè... Già la mia vecchia aspirazione, una ragazza che viene da più lei. Prendiamo un nome banale. Maria, difficile da controllare, però lei al bar vede Maria, che sta sola, è tanto tempo che non vedeva Maria, e aveva pensato, aveva elaborato dentro di sé delle storie su Maria, che la vede sola, sola. Allora il cuore cosa fa? Le salta nella gabbia, cioè... Se lei ha un penchant nei confronti di Maria, il cuore le salta la gabbia. Se ha un penchant e il cuore non le salta, lei è coglione. È chiaro, no? Perché, insomma, è io no, quindi. Vediamo, lei veda, prendi. Ma cambiamo esempio. No. Vediamo che Roberta è una passione per l'ingegnere. Un ingegnere. Va bene con l'ingegnere? Sì, però non abbiamo cambiato esempio. Questo, perché cambiare esempio non va bene, no? No, cambiare esempio nel senso spaziale su altre donne, su altri nomi, attenzione. Allora, prendiamo il caso di una ragazza qualunque, senza fare, senza indicare uno di voi, che ti chiami Roberto. Vedi un ingegnere che le piace, il cuore le salta nella gabbia. Ma questo saltare cosa significa? Cosa significa? Che è esuberante, però... Questo della gabbia, lei che dice di questo della gabbia? Come mai la gabbia? A me dà l'idea che nel rapportarsi poi con l'altro il cuore perda una parte della sua individualità e quindi salta. Questo è un po' troppo elaborato. È interessante quello che dice, però questo mi dà il detto per dirvi questo. Quando leggete un testo letterario, questa è una cosa che io dico sempre alle ragazze che parlano con me, eccetera. Evitate di fare le etichette, vi ricordate questa espressione qua, no? Evitate di fare le... Cos'è il fichettismo? Il fichettismo, che è anche maschile, anzi direi a volte è venuto a lui. Ci può fare, devo dire, però è una certa età, insomma, direi che tutto un generico che la parola fichetta, insomma, che lo fa. Però quando ho montato un po' di impianto. Osservazioni su carte, cioè, lo fermate dicendo qui siamo in basso. Quando leggete un testo letterario bisogna tenere a freno l'intelligenza. Vuol dire che in qualche caso se uno l'intelligenza non c'è, quindi tenerla a freno, come fai a tenerla a freno? Però bisogna insomma stare coi piedi per terra. Questa osservazione è troppo fine, è troppo elaborata, troppo fine. La gabbia, che idea Silvia le fa venire in mente? Mi dà un'idea di claustrofobia. Claustrofobia, di prigionia. Di prigionia e di... Perché se adesso le torno a casa la metto in una gabbia. Ma ci mancherebbe altro, no? Sì. Ecco. Mi manca la libertà. Un cuore che è in una gabbia, che vuol dire? È un cuore che... dire, si scontra violentemente contro il proprio niente. Sì, però sai, quando uno è in una situazione, come dire, sociale complicata, allora il cuore sempre è in una gabbia, se la persona è sposata o no, eccetera. Vorrei semplicemente che voi sentiste queste suggestioni per far capire che siamo in un momento di tensione, no? A cui segue un momento di liberazione, perché poi l'uccello canta, ma apparentemente, perché l'uccello canta, ma come il canto del cigno, perché l'uccello sta per morire. Adesso se noi guardiamo questi primi versi, poi vediamo che c'è una sensazione di viaggio, poi c'è una sensazione di movimento rattenuto in un presagio di morte. Non tiriamo le conclusioni, finora abbiamo queste indicazioni. Partiamo. Anzitutto il verso successivo, un'altra porta sta per aprirsi, va bene? Vedete che in è sullo stesso livello di orizzonte. Questo significa che il racconto sta riprendendo dall'inizio. È una sorta di punto a capo. Chiaro? Bene. La cosa interessante è che qui parla di un'altra porta che sta per aprirsi. La porta che si apre, naturalmente, dà subito l'idea della gabbia che si chiude, del viaggio, eccetera. Però dice un'altra porta sta per aprirsi. Eh? Perché un'altra porta? Chi me lo sa dire? Micaela. Forse nel viaggio ci siamo spostati e quindi siamo di fronte a nuovi orizzonti, siamo di fronte a cose nuove. Perché in realtà, molto bravo, come sempre. Perché? Perché in realtà dire un'altra porta ha senso. Perché già il viaggio è stata un'apertura di porta. Ecco perché qui un'altra porta sta per aprire. E a questo punto arriva uno dei temi più, una delle immagini più caratteristiche di Reverdy, che è quella del couloir, del corridoio. Il couloir lo troviamo spessissimo. Qui c'è un couloir in fondo al quale si accende non una lampada, ma una stella. Seguite? Ecco. Allora ragazzi, un couloir. Cos'è un corridoio? Cos'è un corridoio? Lo dice lei cos'è un corridoio? Lo descrive? È una lunga delimitata da due pareti. Questo non è un no? Se io esco di qui c'è un corridoio. Che emozione le può dare un corridoio? Anche qui di chiusura di questo chiuso, stretto, lungo. Sì. Ci sono aperture laterali. No, giusto, non ci sono aperture laterali. Dovete avere questo corridoio in mente. Il corridoio voi lo metteste, per esempio, in un film thriller? Lo metterebbe lei? Metterebbe più una sala o più un corridoio? E fa più paura, diciamo così, è più ricco emotivamente. Un corridoio con la porta o un corridoio senza porta? Con la porta. No, no, con la porta. Oddio, corridoio però lungo, senza porta. Che rapporto ha il corridoio con il concetto di luce? Che rapporto ha? Lo dice lei? Come un tunnel che poi alla fine... C'è luce o non c'è luce nel corridoio? No. Però alla fine potrebbe essere. Alla fine potrebbe esserci. Oppure ci potrebbe essere, se noi vogliamo far paura allo spettatore, giochiamoci intorno, potrebbe esserci una luce di che genere nel corridoio per far paura? Blu. La vostra pratica di film alla televisione o altro, come potrebbe essere la luce che fa paura in un corridoio? Soffusa, intermittente. O intermittente, veramente. Oppure una luce normale di lampadina, oppure al nero. Un corridoio quindi a poca luce, una luce gelida, fredda, al nero. Sentite, fate girare in testa tutta sta roba. La cosa importante è far girare in testa delle suggestioni, perché il nostro scopo non è quello di arrivare a una didascalia, no? Questo vi dico sempre, quando uno vede un quadro, tramonto in Calabria, ah vedi che c'è un segno della Calabria, un'indicazione generica, quello che importa è capire l'atmosfera, l'atmosfera. Allora l'atmosfera del corridoio, da questa indicazione un po' ce l'avete? Stretto, con le luci che possono renderlo spaventevole, ma poi soprattutto con la porta. Perché? Perché c'è una serie di film dell'orrore su questa questione, film che si intitolavano Non aprite quella porta. Cosa c'è dietro la porta? Che c'è dietro la porta? Però cosa potrebbe esserci? Mettiamo che lei stia camminando in un corridoio con la luce al nero, non c'è nessuno. E a un certo punto c'è la porta. Fate attenzione. E a un certo punto la porta in fondo, non c'è nessuno, si schiude. Qual è la tua sensazione? Non male, vado immobilizzata. Va avanti, apre la porta? No. Soprattutto guardo un po' come evolve la situazione e poi provo ad andare avanti. Il corridoio sa perché c'è il Ravertino? Abbiamo parlato della paura? Per questi motivi. Perché la poetica di Ravertino mette al centro questo tema, come vedremo fra poco, della paura. Ecco perché il corridoio è così frequente. Ci sono anche altre immagini che fanno paura, eh? Altre immagini. Un soffitto che si inclina. Teoretta arriva in camera sua, vede il soffitto inclinato, la Madonna. Una parete che crolla, un soffitto che si inclina. Ma fa paura anche altre cose, fanno paura della topografia reverdiana. Sapete che cos'è che fa paura, per esempio? Ma ditemi perché, voglio vedere se siete figli. Un giardino. Un giardino. Perché un giardino fa paura? Perché può far paura un giardino? Le pagine, lo dice lei? Vedi la perfezione di un prato coltivato, però nello stesso tempo sono l'aria aperto, che non ha... Può essere anche surreale un giardino. Surreale, questa è una bella indicazione. Ma poi la perfezione è qualcosa che può turbare. L'ordine, il disordine dà fastidio, ma l'ordine eccessivo può turbare. Allora dovete immaginare un giardino con i suoi uomini, i fiori perfettamente coltivati, insomma, no? E sapete perché può turbare? Facciamo un altro sforzo di testa. Perché l'ordine può turbare? Perché l'ordine non è naturale. Quello che è naturale è invece una condizione di disordine. Ma se io vedo un giardino stravemmesso, penso alla presenza umana. L'artificio fa paura. L'artificio, questo grande tema bodleiano, fa paura. Perché... se io comincio a seguire l'artificio, cioè la menzogna, non ho più dei punti di riferimento precisi, capite cosa voglio dire? Comunque, in fondo al corridoio, luogo di paura, si accende una stella. Questo è meraviglioso. Guardate che di questa poesia splendida, io qui avevo messo un punto esclamativo, questa poesia splendida, questo corridoio alla Hitchcock, in fondo al quale si accende una stella. Anzitutto vi voglio far notare che Une Étoile e Un Salume sono sulla stessa, lo vedete uno sotto l'altro, quindi seguendo quell'indicazione che abbiamo data, Étoile è un'emanazione di Salume, e lo capite perché? È molto facile questo, perché se io dico si accende, è da sé che c'è qualcosa che si accende, che è legato insieme, Quindi se il verso è asimmetrico è una prosecuzione narrativa. Se uno è sotto l'altro, esattamente, vuol dire che è una emanazione della cosa precedente. Chiaro? Ma una stella in fondo a un corridoio. Una stella. Francesca. Ma una stella non è una luce molto forte. No. Poi se volessimo ricollegarla all'orizzonte che si inclina, quando l'orizzonte si inclina vuol dire che c'è il tramonto. Sì, ma siamo un po' però attaccati al testo, Lei va in questo corridoio. Fatevi pic, se no non lo capisco. A un certo momento, in fondo al corridoio, vedi, è una meraviglia, vedi non una lampada, ma vedi una stella, ma le stelle vanno in cielo, e la stella è venuta lì, per te, ma Ma nemmeno in un presepio, no? E allora senti che sei immerso nell'infinito. E senti che sei nella lunghezza d'onda di quello che sta dicendo finora, il viaggio, l'orizzonte che si inclina, l'apertura. Ecco perché a questo punto possiamo avere la stella. Qui c'è questo topos del movimento, del viaggio rappresentato della stella, chiaro, che si incrocia con il tema della prigionia. Ma il tema della prigionia non fa sentire altro che maggiormente il senso del movimento. Perché appena io vedo una gabbia, subito penso alla fuga. È così o no? Da dove si fugge? Dalle prigioni, dalle case, dalle situazioni sentimentali, oppressive. Non si fugge da un rapporto libero, no? Da un rapporto libero non si fugge. Da un rapporto che è una gabbia, sì. Da una prigionia, sì. All'ultimo vediamo la donna bruna, e la lanterna. Mentre la lanterna è quello che parte, vedete che in quella posizione per cui aveva ragione lo sviluppo del cantino. Vedete, no? Ma perché una donna bruna? Perché una donna bruna e non bionda? Le brune sono meglio. Perché una donna bruna? Lei me lo sa dire? Perché forse una donna bruna viene scontata di una bionda. Ma la bionda topicamente a che cosa è legata? Alla perfezione, alla bellezza. La bellezza, la perfezione, no? Come dice il cantico dei cantici? Lei non lo sa, ma glielo dico io. Bruna sono io, ma bella. Nera sono, no, bruna sono io, ma bella. Come le tende del Kedar. Comincia così. Cantico dei cantici che è di Salomone. Mi baciasse coi baci della sua bocca. Bruna sono io, ma bella. Ma bella. Perché l'essere bruna, non è legata alla bellezza. Insomma, l'amante nella letteratura medievale è biondo o bruno? È biondo, risotto la bionda. Chi è la bruna quindi? Non è l'amante, ma la moglie. Ma la moglie, Poi naturalmente esistono delle variazioni nella vita notevoli, per cui uno ha la moglie bionda, cosa che aveva sbagliato inizialmente. Ma insomma, la bionda è nell'immaginario collettivo, naturalmente maschile, evidentemente, ma non solo, perché poi a un certo punto è diventato un topos questo, è la donna tradimento. Stavo per dire una cosa interessante. Chi è lei? Eccola qua. Questa è una cosa bellissima. Ha mai visto Dio in faccia? E spero di vederlo più tardi possibile. Questa cosa è bellissima. Per questo vorrei un euro, anche 50 centesimi non va bene, faccio il panino. Dio è biondo. Questa, mi promettete che la esportate questa cosa? Lei ha chi può dire? Qui, invece di qui, chi può andare a dire che il professor Guarato ha detto che Dio è biondo? Casa, chi? Tuo fratello, tua sorella? I genitori. Ai genitori, questo lo dico però, Dio è Dio. Un Dio bruno? O Dio? No. Uno gli dice, ma fatti le resce. È un Dio degradato. Tant'è vero che Dio, al di là della... è sempre circonfuso di luce. È sempre circonfuso di luce. La donna bruna, tornando, la donna moglie, la donna bruna, ti dà un senso di casa. Ti dà un senso di casa, di protezione, di riposo. La donna bionda non ti riposa per niente. La donna bionda, qui abbiamo degli esempi insigni. La donna bionda ti esalta. È un auspicio, è un auspicio, ma anche una cosa. La donna viola, la bruna, viene messa erroneamente, erroneamente, viene messa in una condizione, la bruna, di sicurezza. Ma che uno si fida della bionda? Ma diciamo le cose come stanno. Ma c'è uno. Ma uno non fidarsi della bionda. Ma non ci si può fidare della bionda. La bruna, invece, la donna bruna, qua, è proprio il simbolo della casa. E perché qui c'è il simbolo della casa? Perché si sta partendo. E il concetto di partenza funziona. Partire vuol dire allontanarsi da. Se noi abbiamo un punto di riferimento, cioè la casa, con la moglie, con i bimbi, no? Perché uno si sposa? Questa è una cosa che possiamo chiedere, mettiamoci sia qui, per pura ipotesi, una ragazza non c'è, che chiamerò Roberta, no? Allora, noi teniamo a questa ragazza, perché ci si sposa? Ecco, perché ci si sposa? Ci si sposa per avere un nucleo, per avere dei bimbi. Perché il dottor Bevilacqua si è sposato? Questa è una delle domande metafisiche più interessanti. Per avere dei bimbi, per avere una moglie. Lui era una moglie bionda, tra l'altra cosa gli è andata male, come io ho sempre detto. Per avere un posto di riferimento, no? E se noi creiamo però un punto di riferimento, la donna bruna, la casa, eccetera, eccetera, allora abbiamo l'idea del viaggio. L'esterna che parte. Qual è l'essenza di questa poesia, di questi topo incrociati, movimento e prigionia? Se noi guardiamo che cos'è un viaggio, dice un adagio che conoscete tutti, che partire è un po' morire. E infatti l'altro topos, quello del movimento che si incrocia, della prigionia, scusate, che si incrocia, parla della morte, è l'uccello che sta morendo. E quindi quello che racconta, secondo me, perché quando io parlo di essenza, intendo dire, la parola essenza è un po' sofisticata, intendo dire il significato di questa poesia, il motore di questa poesia, no? Qual è il significato, il motore, l'essenza di questa poesia? È il senso della fine. Cioè un viaggio che viene avvertito come un correre verso la fine. Fermiamoci qui 5 minuti e poi...